Le due storie nostre. L'Italia è la sola tra le nazioni d'Europa che abbia una grande storia antica, una grande moderna. Grecia non ha finora se non la prima. L'altre non hanno in proprio se non la seconda. Non hanno della prima se non guari quella parte della nostra che resta loro dall'essere state province dell'Impero Romano. Cesare Balbo.